Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Incontro oggi fra il premier britannico David Cameron e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Aperto, pragmatico, amichevole, questo è l'umore del premier britannico David Cameron oggi quando riceve all'ora del tè, con cena a seguire nella residenza di campagna di Chequers, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Una prima presa di contatti in vista della visita in Danimarca, Olanda, Francia, Polonia e Germania che David Cameron avvierà già dalla fine di questa settimana. Il premier britannico intende discutere con Juncker e dirà poi ai capi di governo e di Stato degli altri paesi UE quali sono le eccezioni inglesi che Londra intende rinegoziare con Bruxelles, dal limite al welfare per i neoimmigrati intraeuropei, alla tutela della City in caso di nuova integrazione economica dei paesi dell'Eurozona. Basi per un referendum che è stato confermato, sarà aperto solo ai cittadini del Regno Unito, Commonwealth, Malta e Irlanda residenti in Gran Bretagna. Non sarà cioè aperto ai cittadini britannici che risiedono all'estero da più di 15 anni, né ai cittadini dell'Unione Europea che risiedono in Gran Bretagna. 45 milioni di persone in tutto che nel 2017 dovranno dire di sì o di no alla continuazione della partecipazione britannica all'Unione Europea. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Alle elezioni amministrative in Spagna, lo abbiamo sentito anche poco fa in effetto giorno, vince il malcontento, Podemos e Ciudadanos da sinistra e da destra mandano in pensione 40 anni di bipolarismo partito socialista lista Partito Popolare. Nessuno dei due partiti, anti-europeista o euroscettico, entrambi però mostrano insofferenza nei confronti del piano di risanamento economico intrapreso dal governo Rajoy. E in Grecia il governo ha fatto sapere che farà ogni sforzo per onorare tutti i debiti e non ha considerato l'ipotesi di accorpare i rimborsi dovuti al Fondo Monetario Internazionale il mese prossimo e rinviarne così il pagamento a fine giugno. Lo ha detto il portavoce del governo greco Gabriel Sakellaridis, aggiungendo che domani riprenderà la trattativa con il Brussels Group. E in Polonia invece sarà l'euroscettico moderato Duda il nuovo presidente della Repubblica. Il vento di Grecia, Spagna e Polonia non soffiano nella stessa direzione, ha commentato il premier Renzi, soffiano in direzione opposta, ma tutti questi venti dicono che l'Europa deve cambiare e spero che l'Italia potrà portare forte la voce per il cambiamento dell'Europa nei prossimi mesi. È a Belgrado oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che auspica l'avvio dell'iter di adesione della Serbia all'Unione Europea. Noi siamo convinti sostenitori dell'avvio rapido del negoziato per il processo di adesione della Serbia all'Unione Europea. Siamo convinti che questo sia nell'interesse dell'Unione Europea anzitutto, nell'interesse dell'equilibrio, della serenità dell'area balcanica, ma siamo convinti che questo servirebbe storicamente a completare il disegno dell'Europa. E noi siamo sostenitori convintissimi dell'avvio, ripeto, sollecito dei negoziati su alcuni capitoli, quantomeno dell'adesione della Serbia all'Unione Europea. Nasce Hashtag, la prima web TV per i giovani europei. L'esordio fra due ore in diretta streaming. Solo voci di giovani e attualità europea debutta oggi Hashtag, il primo talk show interamente dedicato ai cittadini europei tra i 18 e i 35 anni. L'iniziativa è dello European Youth Forum, il più grande network comunitario di associazioni giovanili. Incentivare un dibattito libero e senza intermediari sui principali temi dell'Unione Europea, l'obiettivo della trasmissione online itinerante. Not finding a job. Austerity. Mobility. Discrimination. Censorship. Inequalities. Being able to have your voice heard. Corrupt politicians. Identità, perché mi sento o non mi sento europeo, lavoro, come creare un impiego di qualità in Europa, cittadinanza europea, ma cosa vuol dire davvero, sono solo alcuni degli argomenti protagonisti di Hashtag. La web TV andrà in onda su YouTube ogni mese in una capitale diversa dell'Unione. Si parte da Bruxelles per arrivare a Roma il 26 ottobre e finire a Tallinn il 25 aprile 2016. Attesi giovani da tutta Europa che potranno partecipare di persona semplicemente registrandosi online oppure via Twitter. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.